Italia in controluce. È il 26 di luglio, vi parla Daniele Biacchesi sulle frequenze di Radio 24, Il Sole 24 Ore. Continua il nostro viaggio tra i giornalisti impegnati nella lotta contro la mafia. Jacopo Matano intervista Francesca Barra. Per me il giornalista è proprio per definizione dovrebbe essere colui che ricerca la verità e attraverso il suo sguardo lo racconta. Le mafie, le organizzazioni criminali sono il problema del nostro paese. Per cui da giornalista non potevo non parlare, non occuparmi di uno dei problemi che affligge il nostro paese. Ho iniziato ad interessarmene, a seguire moltissime inchieste da 3 anni a questa parte e ho proposto questo programma radiofonico, La bellezza contro le mafie, che va in onda da 2 anni su Radio 1 Rai, e da lì ho raccontato quasi 800 storie. Ecco, quindi... il titolo del tuo programma, La bellezza contro le mafie, è in realtà una frase di Peppino Impastato, ce la vuoi spiegare? Peppino Impastato sosteneva che bisognerebbe rieducare le nuove generazioni alla bellezza per poter far capire che c'è altro rispetto a ciò che soprattutto alcune persone che vivono in luoghi avvelenati, divelti, anche purtroppo vittime di luoghi comuni o che sono stati scenari di fatti di cronaca che li hanno un po' isolati, per cui ho cercato di raccontare le storie ma contestualizzandole. Tu hai scritto anche un libro, Il Quarto Comandamento, la vera storia di Mario Francese, il giornalista ucciso dalla mafia, e racconti anche la storia del figlio Giuseppe. Il libro sarà presentato al Festival Trame di Lamezia Terme. Ecco, vogliamo ricordare di nuovo questa storia? Il quarto comandamento onora il padre, ciò che ha cercato di fare per tutta la vita, quello che era soltanto un bambino, a 12 anni gli hanno ammazzato il padre sotto casa. Nel 1979 il padre era il giornalista di punta del Giornale di Sicilia, un cronista di Nera e Giudiziaria, e la sua ha dato l'avvio ad una serie di morti eccellenti. Il piccolo, il suo figlio minore Giuseppe, crescerà per tutta la vita cercando di dare un volto, un nome ad un'entità che gli avevano spiegato avesse portato via il papà, che era la mafia. Questo bambino cresce con i suoi fratelli, cercherà, portando delle prove personalmente, di far riaprire il processo. Dopo 20 anni il processo si riaprirà e verrà condannata per l'omicidio di Mario Francese l'intera cupola di Cosa Nostra. Stiamo parlando di personaggi del calibro di Provenzano, Totorrina, Bagarella. E il figlio poi non riuscirà, diciamo così, a darsi pace, se vogliamo, perché poi la storia ha un epilogo tragico. Purtroppo è esemplare perché fa capire che cosa passano i familiari vittime di mafia quando non conoscono il nome di chi ha ucciso un proprio caro e devono vivere per tutta la vita lottando per raggiungere un obiettivo, che è quello di fare giustizia, almeno se non quello di riportare in vita il proprio caro, che è impossibile. Per cui il figlio, purtroppo schiacciato dal peso di questa grande responsabilità, si toglierà la vita senza riuscire neanche a gioire appieno, appunto, della sentenza, facendo ripiombare poi la famiglia, i 3 fratelli Giulio, Massimo e Fabio, e la madre in una seconda tragedia, purtroppo. Affrontiamo ora un tema che riguarda noi giornalisti. A volte si ha la sensazione che ci siano 2 modi di raccontare la mafia. Il primo è quello che fanno i grandi giornali nazionali, le televisioni, le radio, appunto, di livello nazionale. Il secondo invece è quello dei giornalisti che sono sul campo, che lavorano per i quotidiani locali, che sono sconosciuti ai più e che sono spesso minacciati. È come se però questi mondi a volte non riuscissero ad incontrarsi. Come si può, secondo te, valorizzare il lavoro di queste persone, farle emergere e un po' anche proteggerle nel loro lavoro quotidiano? Noi dobbiamo cercare di essere sempre e comunque un megafono, al di là dell'audience, al di là di storie che forse non fanno troppa presa. Forse quelli che non amano definirsi eroi sono però dei personaggi che dovrebbero venire alla luce, perché sono loro davvero che ci permettono di fare questo mestiere e ci permettono anche di porre le basi per un futuro migliore. Sempre Jacopo Matano intervista Giuseppe Baldassarre, un altro giornalista che scrive di mafie e che ha avuto minacce. Io sono un cronista di giudiziaria, scrivo in Calabria per il quotidiano della Calabria, faccio delle corrispondenze per Repubblica ed è quello il settore in cui lavoro. La mia è una storia abbastanza comune, nel senso che è comune ai giornalisti che fanno questo tipo di lavoro in Calabria. Un lavoro fatto di pressioni, di ritmi altissimi, perché la Calabria ovviamente produce moltissimo per quanto riguarda la giudiziaria, le procure sono sempre in fermento, sempre al lavoro. Ed ovviamente, come tutti quelli che fanno un lavoro sotto pressione, è un lavoro complesso, articolato, molto spesso non semplicissimo, fatto in un contesto nel quale l'Ndrangheta è assolutamente padrona e non perde occasione per fartelo sapere, insomma. E infatti c'è un momento in cui ti accorgi che il tuo lavoro sta dando fastidio. Come si manifestano le minacce? La più eclatante è stata lo scorso anno una lettera anonima con pallettoni all'interno, nel quale si diceva: se andare oltre significa morte, cioè no, per la serie non esagerare. Di che cosa ti stavi occupando in quel momento? In quel momento mi stavo occupando di un processo peraltro concluso, dove c'erano delle ingerenze fra uomini della criminalità organizzata, politici, eccetera, eccetera, che sono storie tutto sommato abbastanza comuni in Calabria. Poi ci sono altri modi nei quali si manifestano, che sono, come dire, i messaggi velati di qualche familiare, le telefonate anonime, piuttosto che un avvocato che ti invita ad andarci cauto su determinati argomenti. Ho visto che tu in diverse occasioni hai denunciato l'isolamento e la solitudine in cui si ritrovano i giornalisti calabresi, ma questo isolamento si manifesta anche da parte delle istituzioni? L'isolamento è totale ed è complessivo, non vedo alcun tipo di sostegno nei confronti del nostro lavoro, anzi molto spesso a screditarlo sono proprio le istituzioni, nel senso che, dovendone anche scrivere noi, ovviamente non siamo i migliori amici della classe politica calabrese né delle istituzioni calabresi, ma per isolare una persona non c'è bisogno di fare nulla di particolare, basta non sostenerla nel suo lavoro, ma questo vale per le istituzioni, vale per una parte della società, vale per la politica, vale anche per i colleghi giornalisti, che non mi sembra che facciano la corsa a sostenere il nostro lavoro, così come non fa la corsa nell'ordine dei giornalisti né il sindacato. Ecco, proprio nel rapporto con l'ordine dei giornalisti FNSI tu hai denunciato che in Calabria non avete strutture che vi difendano, ordine e sindacato, hai detto, sono assolutamente assenti. Ha replicato il presidente dell'FNSI calabrese Carlo Parisi, che ha detto: se la gente non è solidale con chi scrive, bisognerebbe chiedersi se e quanto sia attendibile ciò che si scrive. Su questa cosa quindi si è aperta una polemica anche sulla veridicità di quello che voi scrivete? Lui sostiene questa tesi, io dico semplicemente una cosa: se noi scriviamo cose false prendiamo le querele, se si dimostra che sono false le querele le paghiamo pure. Siccome personalmente, ma credo di poter parlare anche a nome di moltissimi altri colleghi, di querele ne abbiamo prese tantissime, però le abbiamo anche tutte vinte, significa che forse cose false non ne scriviamo. Bene, tu hai scritto assieme a Manuela Iati un libro inchiesta che si chiama Avvelenati e parla del traffico di rifiuti tossici e radioattivi. Che cosa avete scoperto? È un libro che mette insieme praticamente tutte le indagini che sono state fatte su questo settore e fa emergere in qualche maniera gli angoli bui che non sono mai stati illuminati, il coinvolgimento di pezzi delle istituzioni, dello Stato, ed è un libro che dimostra come alla fine ad essere avvelenata quasi sempre in queste vicende è proprio la verità. Italia in controluce termina qui 13:15, la prossima edizione su Radio 24.